Focus Economia con Deborah Rosciani. Buonasera da Deborah Rosciani, ben trovati a Focus Economia, l'ultima puntata dell'anno in diretta. Domani sera però sarà di nuovo per uno speciale con voi Sebastiano Barisoni, se non ricordo male. Mi stanno guardando con aria un po' interrogativa, però annuiscono dalla regia, per cui dovrebbe essere così l'ultima giornata della diretta, in diretta, perché naturalmente seguiamo anche quello che accade in borsa e oggi l'ultima giornata di negoziazione per i mercati europei, Piazza Affari compresa, e una ultima giornata peraltro positiva. Non c'è stato il tanto auspicato e per molti versi anche atteso rally di fine anno. Era impossibile quest'anno, d'altronde, che ci potesse essere qualche sorpresa del genere. C'è questo mini rally degli ultimi due giorni di negoziazione sui mercati. Il quadro è positivo, anche se oggi sono di nuovo arrivate indicazioni piuttosto pessime dagli Stati Uniti sul fronte macroeconomico, ma come andiamo ribadendo la settimana ormai non ci stupisce più niente. Ci aspettiamo mesi difficili e quindi gli indicatori economici non fanno altro che anticipare e darci insomma conferma di quello che sta accadendo. Questo è il quadro di borsa in questo momento. Parigi sta registrando un rialzo dell'1,19%, Francoforte ha chiuso alle 14:15 oggi le contrattazioni con un più 2,24% e definendo, quindi ultimando, il bilancio finale, a meno 40% per la borsa tedesca dall'inizio dell'anno, con diciamo danni un po' più limitati rispetto a quanto invece hanno fatto altri listini che, come abbiamo già indicato anche stamattina a Salvadanaio, hanno perso anche il 50%, qualche piazza come quella islandese ha perso quasi il 100%, il 97% del suo valore, ma insomma non ritorniamo a fare queste percentuali, perché contribuiscono solamente a deprimerci queste ultime giornate prima del Capodanno. Milano più 0,30%, oggi aveva fatto anche un po' meglio, poi sono arrivati appunto, come vi dicevo, i dati americani, hanno un po' rallentato il clima e depresso un pochino l'umore, però insomma tutto sommato l'Europa a quanto pare ha intenzione di chiudere positivamente questo anno. Ne parleremo più tardi, naturalmente. Tra l'altro è stato stilato anche il bilancio di queste 2008 proprio da Borsa Italiana, che ha oggi sfornato tutti i numeri di questo anno borsistico difficilissimo, sia dal punto di vista dei volumi, dei trattati, dal punto di vista anche dei comunque titoli delle società che si sono comportate bene, perché non è che poi sia stato un disastro per tutte le società quotate. Quindi il bilancio di questo 2008 lo faremo più tardi. Ci sono però tanti altri bilanci da fare in una giornata come questa. C'è il bilancio molto importante di questa operazione di cui abbiamo parlato anche nel giornale radio, di questo maxi sequestro di pesce avariato, contraffatto, che porta anche lo sponsor del ministro delle politiche agricole Luca Zaia. Ne parleremo, perché da lì partiremo per fare un po' il punto sul tema della sicurezza alimentare anche in una fase come questa in cui i consumi languono, ma tutto sommato non è che poi il consumatore debba anche su certi aspetti e certi versanti abbassare la guardia, per cui sentiremo anche direttamente le associazioni di categoria cosa pensano in relazione a questa operazione, ma anche in relazione alla tematica dei consumi in quest'ultimissimo scorcio dell'anno in cui si contano i danni per molti settori, in cui però c'è in ogni caso anche qualche possibilità di vederla al positivo. Per esempio, poi lo commenteremo, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori e Turismo Verde, saranno oltre 500.000 gli italiani che trascorreranno giorni di relax a contatto con la natura. Saranno molto frequentati in questo periodo gli agriturismo, per cui anche un modo per così valorizzare certe zone del nostro paese che magari in altri momenti non probabilmente guadagnano le prime pagine della cronaca, invece forse in un momento di crisi si riesce anche a così enfatizzare un po' quest'altra faccia della medaglia della crisi. Ne parleremo, appunto, sentiremo anche poi le considerazioni della Confesercenti anche per il punto di vista consumi veri e propri, in vista anche dei saldi che stanno iniziando, se non sono già iniziati peraltro in molte città, non in via ufficiale ma qualche negoziato negoziante, lo sapete bene perché molti di voi saranno incappati, hanno già praticato sconti naturalmente alla propria clientela, e poi sentiremo anche la considerazione delle associazioni dei consumatori. C'è un altro dato oggi importante, il dato sui prezzi alla produzione, c'è un calo vistosissimo per quello che riguarda l'ultima rilevazione, il calo più ampio dal 1980 per la discesa imponente che stanno avendo i prezzi del settore energetico, quindi in primo luogo il petrolio, un po' più vischioso invece il ribasso dei prezzi del quadro alimentare. Ci faremo spiegare da un esperto le motivazioni per cui questa discesa è così disomogenea. Insomma, anche stasera, come ultima puntata dell'anno di Diretta, non ci facciamo mancare niente. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Adesso le altre notizie in breve. Il petrolio lo citavamo poco fa perché lo vedremo come componente essenziale per il dato sui prezzi alla produzione in calo molto importante nell'ultima rilevazione nel nostro paese. Il petrolio, come ha aperto oggi a New York dopo la fiammata di ieri per l'intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente, di nuovo abbondantemente sopra i $40 al barile, oggi a New York ha aperto di nuovo al di sotto di questa soglia a 39,27. Gazprom, il più grande produttore di energia russo, nel secondo trimestre dell'anno, e cioè prima della caduta dei prezzi del petrolio, ha quasi triplicato l'utile. L'utile netto si è infatti attestato nel trimestre aprile-giugno a 300 miliardi di rubli, cioè 7,2 miliardi di euro, dai 103 miliardi di rubli dello stesso periodo dell'anno precedente. Sempre nel secondo trimestre il fatturato è cresciuto del 58% a 840 miliardi di rubli, qualcosa come 20 miliardi di euro. Andiamo a Snam Rete Gas. La cessione da parte di Enel della propria quota di maggioranza della società a cui fa capo la rete di distribuzione del gas del gruppo riscuote grande interesse. Sono 12 a quanto si apprende le offerte arrivate dalla società elettrica, 6 di investitori italiani e 6 di stranieri. E si tratta sia di investitori finanziari che industriali. Ieri scadevano i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. L'operazione, che rientra nella strategia di Enel di ridurre il proprio indebitamento, dovrebbe valere intorno a un miliardo e 400 milioni di euro e dovrebbe concludersi entro fine marzo. Stiamo parlando della cessione Rete Gas e non Snam Rete Gas, come ho detto poco fa. Andiamo al bilancio di borsa di queste ultime giornate, di quest'anno terribile. La prima oggi ad archiviare l'anno è stata Tokyo, che ha chiuso con un rialzo dell'1,28%, ed il 2008, ma non è sicuramente l'unica piazza a decretare questo primato, è stato l'anno peggiore della storia della borsa giapponese. Il Nikkei complessivamente ha accusato un ribasso dall'inizio dell'anno del 42,12%. Abbiamo già detto di Francoforte, meno 40% dall'inizio dell'anno. Non abbiamo ancora il bilancio definitivo delle altre piazze, che stanno ancora negoziando, ma abbiamo qualche notizia relativa a Piazza Affari, che lascia sul terreno metà del suo valore nel corso del 2008. L'indice MIB, il riferimento storico della borsa italiana, conclude un anno da dimenticare con un calo del 49%. La capitalizzazione è scesa a 372 miliardi, pari al 23,4% del prodotto interno lordo del nostro paese, cioè meno di un quarto del PIL. Lo si legge in una nota col bilancio aggiornato a ieri dell'andamento del listino milanese. Tassi di mercato, tassi interbancari ancora oggi in discesa, l'Euribor a tre mesi, il parametro di riferimento per larga parte dei mutui erogati alle famiglie italiane, ed è il tasso che le banche si fanno pagare appunto per un prestito in euro trimestrale sul mercato dei depositi, è sceso oggi al 2,93% dal 2,97% di ieri, segnando così i nuovi minimi dal 31 maggio del 2006. Ultima asta dei titoli di Stato del Tesoro oggi, e tornano ai livelli del 2006 i rendimenti dei CCT e dei BTP triennali. L'asta che si è tenuta oggi ha visto infatti una riduzione di 0,30 punti del rendimento del certificato di credito del Tesoro, che si attestano così al 3,49%. Per quello che riguarda invece i buoni poliennali triennali, il rendimento si è attestato al 3,44% con una riduzione dello 0,15%. Per trovare un rendimento più basso bisogna risalire rispettivamente ad agosto e a maggio del 2006. Andiamo all'economia internazionale. La Commissione europea oggi ha dato il via libera alle misure varate dalla Germania per il sostegno alle imprese. È quanto si legge in un comunicato di Bruxelles, che rileva come essa sia la prima decisione che approva i nuovi aiuti di Stato a sostegno dell'economia reale. Si tratta, ha spiegato la Commissione, di un programma di prestiti di 15 miliardi di euro per fornire liquidità alle imprese coinvolte dalla contrazione del credito e di uno schema che consente agli enti locali di intervenire a sostegno delle imprese in difficoltà con un aiuto pari a 500.000 euro per azienda. Il Tesoro americano, questa è stata peraltro la notizia che ha rinvigorito notevolmente i corsi azionari degli ultimi due giorni, ha formalizzato il pacchetto da 6 miliardi di dollari per salvare il gruppo di servizi finanziari Jim Mack, l'ex braccio finanziario della General Motors, attualmente controllato sia da GM che dal fondo Cerberus, che è proprietario tra l'altro della Chrysler. Il pacchetto prevede una ricapitalizzazione statale per 5 miliardi, mentre l'altro miliardo i dollari sarà il prestito che verrà accordato a General Motors per permettere alla casa automobilistica di partecipare all'operazione di ricapitalizzazione. E come era stato peraltro anche anticipato in questi giorni da larga parte della stampa, i 6 miliardi di dollari che il Tesoro americano ha deciso di stanziare per stabilizzare GMAC arriveranno dal TARP, il piano salva finanza da 700 miliardi di dollari, l'ex piano Paulson per intenderci, e consentiranno alla finanziaria di ampliare il credito ai consumatori e quindi un modo per rilanciare le vendite di auto negli Stati Uniti. Dicevamo prima di questi dati economici che oggi sono arrivati dagli States, sono stati pessimi, anche se poi tutto sommato l'economia, il fronte azionario ha retto rispetto a questi dati. Abbiamo avuto la fiducia dei consumatori americani, quella misurata dal Conference Board, ce ne sono due. A dicembre questo dato è crollato a 38 punti, segnando un minimo record, dai 44,9 di novembre. Le previsioni erano invece addirittura per un rialzo a 45 punti e mezzo. E abbiamo invece l'altro indicatore importante che come sempre va a monitorare l'andamento del comparto immobiliare, in particolar modo i prezzi delle abitazioni. Stiamo parlando dell'indice Schiller, ce ne sono due. Un dato va a monitorare i prezzi delle prime 10 città negli Stati Uniti, un altro invece va a monitorare le prime 20 città. Per quello che riguarda la prima rilevazione, quella sulle prime 10 città degli Stati Uniti, ebbene l'indice Schiller è sceso del 2,1% rispetto al mese precedente e del 19% in confronto all'ottobre del 2007. Se invece si va ad analizzare il dato riferito alle prime 20 città, c'è stata su base mensile una flessione del 2,2%, su base annuale una flessione del 18%. E c'è anche un altro dato che in questo caso viene guardato con preoccupazione a chi ovviamente guarda lo stato dei consumi americani, poi parleremo di quelli di casa nostra. Stiamo parlando delle vendite delle catene di grandi magazzini americani, che sono di nuovo calate secondo il Consiglio Internazionale dei Centri Commerciali. Nella settimana terminata il 27 dicembre sono diminuite di un punto e mezzo rispetto a quella precedente, mettendo in evidenza che il Natale oltreoceano è stato davvero magro. Torniamo all'Italia con un altro paio di dati prima di entrare nel merito del nostro primo approfondimento. I prezzi alla produzione dei prodotti industriali hanno registrato a novembre una diminuzione dell'1,6% rispetto al mese precedente e un aumento del 2,3% rispetto al novembre di un anno fa. Lo ha comunicato l'Istat, precisando che il calo congiunturale è il più ampio dal 1980, cioè addirittura da quando è stata avviata questa rilevazione. Ed è un calo dovuto soprattutto ai prodotti petroliferi raffinati, che in un mese sono diminuiti del 13%, in un anno del 20%. Crolla anche il clima di fiducia fra le imprese italiane, dalle costruzioni al commercio ai servizi di mercato. L'indice di fiducia registrato dall'ISAE è in calo e in alcuni casi scende ai minimi da 10 anni. L'Istituto di Studi e Analisi Economica oggi ha diffuso 3 diverse richieste e inchieste dalle quali emerge lo stesso dato. Le imprese continuano a vedere nero, in particolare per le costruzioni. A novembre l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo e si posiziona sul livello più basso registrato da dicembre 1998. In forte caduta, evidenzia l'ISAE, anche la fiducia dei commercianti. In questo caso il dato è di dicembre e non sembrano avere avuto effetto positivo i tradizionali acquisti di Natale, male anche il clima di fiducia nei servizi di mercato. Abbiamo poi il dato con relativamente al mese di ottobre per quello che riguarda l'occupazione nelle grandi imprese, quelle con 500 e più addetti, che ha registrato un calo annuo dello 0,6% al lordo della cassa integrazione e dell'1,1% al netto della cassa integrazione. Anche questa rilevazione è stata fornita dall'Istat. Il fisco accelera sui rimborsi e porta sotto l'albero di Natale dei contribuenti 300 milioni di euro per il pagamento dei rimborsi IRPEF con le dichiarazioni dei redditi più recenti. Contemporaneamente parte il pagamento di 3 miliardi di euro per azzerare i rimborsi con più di 10 anni di anzianità. L'operazione verrà completata entro i primi mesi del 2009. Ad annunciarlo è stata oggi l'Agenzia delle Entrate, facendo il punto anche sui rimborsi fiscali effettuati. Ancora un altro tema, netto calo del traffico aereo internazionale. In novembre il traffico internazionale di passeggeri è sceso del 4,6% rispetto allo stesso mese del 2007. Per il settore merci la contrazione è stata del 13,5%. Un calo scioccante, ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale della IATA, l'associazione di categoria, Giovanni Bisignani. La IATA è l'associazione internazionale per il trasporto aereo. Bisignani ha preannunciato profonde perdite per il quarto trimestre. Per il traffico passeggeri il fattore di carico è stato in novembre del 72%, 3 punti percentuali in meno rispetto ai livelli dello scorso anno. E visto che parliamo di trasporto aereo, concludiamo le nostre notizie in breve con Alitalia. Per la scelta del partner straniero di Alitalia siamo vicini, lo ha detto Gaetano Micciche, responsabile corporate di Intesa San Paolo, all'ingresso dell'assemblea di CAI. Ci vorrà qualche settimana, aveva indicato poco prima Salvatore Mancuso, socio di CAI attraverso Equinox. A chi gli chiedeva se ci fosse già un orientamento preciso verso Air France o Lufthansa, i due hanno replicato: non ancora. Abbiamo cambiato il nome e la ragione sociale, la società si chiamerà semplicemente Alitalia, non nuova Alitalia, ha detto ancora Mancuso, che tra l'altro è anche vicepresidente di CAI, che in assenza oggi all'assemblea del numero 1 Roberto Colaninno ha presieduto appunto l'assise per il nuovo nome della società acquirente della vecchia Alitalia. Lasciamo le notizie in breve, andiamo al primo approfondimento di oggi. Parleremo di consumi, il consueto bilancio di fine anno, partendo però dalla grande operazione di oggi nell'ambito della contraffazione alimentare. Ragione gli ascoltatori che naturalmente, dice, mancando Barisoni manca il gufo, ma anche questo è un avvio di trasmissione a dir poco angosciante. Avete ragione, cioè ad andarle proprio a cercare col lanternino oggi non avremmo potuto fare di meglio. Però che dobbiamo fare? Io ve lo dico sempre, cerco di raccontarvi tutte le notizie che abbiamo a disposizione, quelle che ci passi il convento con il sorriso sulle labbra, però c'è poco da fare se questo è, cerchiamo di raccontarvele in una maniera insomma più leggera possibile, ma questo è lo stato delle cose. Andiamo però intanto a Venezia a sentire oggi che cosa è successo. Ammonta a 160 tonnellate il pesce sequestrato in tutta Italia nell'ambito di un'operazione che è stata chiamata Capitone, è stata resa nota dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia. Sequestri importanti che riguardano, lo avete sentito anche nel corso dei numerosi nostri giornali radio di oggi, pesce avariato, pesce conservato venduto come fresco e prodotto asiatico venduto come nostrano. Nell'operazione Capitone sono stati impiegati oltre 2.000 uomini, sono stati effettuati più di 6.670 controlli e sono stati scoperti 588 reati e illeciti amministrativi. Con l'operazione compiuta in 14 regioni abbiamo voluto dare tranquillità ai consumatori. I mercati ora sono sicuri, puliti e in grado di fornire pesce in regola, ha detto il ministro Zaia, e nel preparare i menù di San Silvestro, ma anche di tutto il resto dell'anno, è bene pensare ai nostri agricoltori, probabilmente anche alle nostre pescherie, ai nostri pescatori. Sentiamo su questi temi l'intervista della nostra Silva Menetto al ministro Zaia a margine della presentazione appunto del maxi sequestro di prodotti politici. Guardando l'agricoltura nazionale abbiamo l'imbarazzo della scelta. 4.500 prodotti tipici censiti nell'Atlante nazionale, oltre 500 denominazioni di vini, ricordiamolo a tutti, soprattutto a quelli che amano le bollicine che sono straniere, che noi siamo i primi produttori nazionali anche per qualità, e tutta questa qualità deve essere premiata con l'acquisto. Quindi aiutare i nostri agricoltori significa mantenere un'identità produttiva territoriale e avere garantita la sicurezza alimentare. Lei ha lanciato anche lo sciopero dell'ananas. Beh, questa è la volontà di ricordare, mi spiace per chi produce ananas, ma non era la volontà di perseguirli, ma di ricordare che abbiamo delle produzioni che spesso vengono dimenticate, che sono le nostre produzioni locali che vanno tutelate. Sul fronte della frutta si trovano tranquillamente i kiwi, siamo i primi produttori mondiali, si trovano pere, mele, arance, mandarini, cerchiamo di utilizzare queste. Un cerone anche a base di pesce? Assolutamente sì, un pesce super sicuro dopo questi grandi sequestri di questi giorni, mercati puliti, operazione capitone sicuro, ma soprattutto ricordiamo che chi non volesse proprio mangiare di magro, per il grasso c'è sempre la carne, e penso alla carne di suino in particolar modo, zampone, cottechino, quindi un invito del ministro a mangiare questi prodotti. C'è sempre qualcuno che nel villaggio globale pensa di essere più furbo degli altri. Il nostro ruolo è quello di garantire sicurezza alimentare. Delle 160 tonnellate abbiamo avuto molti casi, ad esempio di vongole veraci, che non erano veraci, non erano nostrane, ma venivano dai mari asiatici, piuttosto che il pesce ghiaccio che veniva venduto come bianchetto o sardella, ed altri esempi, ad esempio il pollack venduto come merluzza. Che cosa farete del pesce che è commestibile? Dobbiamo pensare anche agli indigenti, a chi non ha i soldi per comprarsi il cibo. Sono circa 7 milioni di cittadini in Italia che comunque hanno delle difficoltà, e penso che tutto quel cibo che è sicuro, è certificato e che può essere tranquillamente consumato deve essere dato gratuitamente agli indigenti, quindi chiederemo alle procure di dissequestrare questo cibo. Quanto al maiale e alla diossina invece potremmo tranquillamente consumare zampone, cotechino? Ma lo zampone è super sicuro e lo abbiamo già dimostrato, piuttosto preoccupiamoci di quei cibi che vengono da fuori, dei quali molto spesso non sappiamo la loro storia. Abbiamo in diretta il presidente della Confesercenti, Marco Venturi. Presidente, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera anche a Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, Associazione Diritti Utenti e Consumatori, quindi diversi punti di vista. Poi sentiremo anche la Confederazione Italiana Agricoltori con il presidente Giuseppe Politi, che ci raggiungerà fra qualche minuto. Insomma, i temi di quest'ultimo scorcio d'anno davvero si intensificano, quelli da commentare che vi riguardano e che hanno per un verso o per un altro un impatto sui consumi. Confesercenti, Marco Venturi, presidente, cosa ci può suggerire in termini anche di approccio alla acquisti in una fase come questa importante operazione che è stata condotta e annunciata dal ministro Zaia? È una fase in cui, dal punto di vista appunto dei consumi, siamo tutti molto attenti, perché dobbiamo ovviamente tenere conto dei budget di tutti, che si sono un po' ristretti. Ora dobbiamo intensificare anche, come dire, l'aspetto del controllo. Quest'anno è stato molto intenso per quello che riguarda l'attenzione al controllo alimentare. Cosa ne pensa? Questo è un fatto importantissimo, perché i consumatori hanno fiducia se le cose vengono fatte nel modo giusto e quindi se ci sono i controlli. Quindi noi siamo per punire chi, soprattutto nel settore alimentare, cerca di vendere prodotti che non sono adeguati. Quindi, insomma, su questo siamo col ministro, siamo con tutti coloro che fanno una politica, diciamo, di sicurezza, e quindi da parte nostra e da parte dei commercianti non ci sono problemi. Bisogna tenere conto che anche nel commercio ci sono migliaia, decine di migliaia di abusivi, soprattutto nel mezzogiorno, soprattutto nell'ambulantato, che vendono abusivamente, che non hanno nessuna autorizzazione e non vengono repressi. E lì è più difficile il controllo, quindi bisognerebbe penalizzare questo tipo di vendite. Bene. Sono aspetti sicuramente molto interessanti, perché tra l'altro ritengo anche che abusivo poi non è che si traduca esattamente in, come dire, figura che magari lo deve fare perché è in difficoltà, ma non necessariamente vende qualcosa di contraffatto o avariato. Ma questo è un altro aspetto che poi esula completamente dalla nostra conversazione di questa sera. Primo Mastrantoni, volevo far intervenire anche lei, ma non ce la faccio perché devo dare la linea alla regia. Continueremo la conversazione anche con l'Associazione dei Consumatori fra qualche minuto. Ovviamente, a parte il commento su questa grande operazione, ci interessa capire invece qual è proprio la sensazione, il sentiment dal punto di vista dei consumi, che sta pervadendo un po' il clima generale, tema che abbiamo affrontato più volte, ma è ormai proprio l'ultimissima parte dell'anno e forse siamo in grado di fare bilanci un po' più sicuri. A tra poco. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani, Focus Economia seconda parte. Come anticipato nella prima parte stiamo commentando, in realtà abbiamo preso questo pretesto per ampliare poi ovviamente il raggio del nostro commento, stiamo commentando, dicevamo, l'operazione Capitone, e cioè questa grande operazione condotta a Venezia, appunto 160 tonnellate di pesce sequestrato, per la verità in tutta Italia, 14 regioni italiane interessate, sequestri che hanno riguardato pesce avariato, pesce conservato, venduto come fresco, prodotto asiatico, venduto come nostrano, che hanno fatto ritornare l'attenzione su quello che è un grande cavallo di battaglia del ministro delle politiche agricole Luca Zaia, cioè il tema del intanto consumare italiano e poi ovviamente inevitabilmente anche della sicurezza alimentare. C'era accaduto poco fa, ma lo abbiamo recuperato, primo Mastrantoni, segretario ADUC. Mastrantoni, buonasera ancora. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Anche a lei volevo chiedere un commento su questa operazione, ma anche su quelle che le associazioni dei consumatori ritengono essere ancora le problematiche aperte in attinenza appunto anche alla, l'ho definita, il cavallo di battaglia del ministro Zaia, cioè la tematica del consumo italiano e della sicurezza alimentare. Sono stati diversi i fronti aperti da questo ministero quest'anno, ma a quanto pare ci sono degli aspetti sui quali non si può mai abbassare la guardia. Come la vede l'associazione dei consumatori? No, assolutamente, il commercio è mondiale, è globale, quindi ovviamente arrivano in Italia come negli altri paesi occidentali o europei, se vogliamo fare un discorso sull'Europa, prodotti da tutto il mondo. I controlli, purtroppo le regole non sono le stesse in tutto il mondo e quindi ci dobbiamo attrezzare con regole, con controlli, perché le nostre regole vengono rispettate, quindi va benissimo il controllo che c'è stato e il sequestro di partite di pesce come per altre partite, per altri problemi che possono essere connessi appunto con la qualità alimentare da una parte e la sanità degli alimenti dall'altra parte. Poi comunque mettere una mano sul fuoco che i prodotti italiani o comunque europei siano del tutto indenni da possibili interferenze negative con la salute, beh, su questo insomma ho qualche seria perplessità. Ricordo soltanto il problema della mucca pazza, ricordo il problema della mozzarella alla diossina, tutta italiana, un prodotto di eccellenza, mozzarella di bufala campana, ricordo altre adulterazioni o frodi alimentari che sono stati scoperti, e benvengano che ci siano questi interventi, ci siano queste scoperte. Maggiore il controllo, maggiori saranno anche le scoperte purtroppo di questi prodotti, perché ognuno poi tira l'acqua al proprio mulino, tende a fare affari anche con prodotti scadenti o scaduti, quindi anche possibilmente nocivi per la salute. Comunque dico, va benissimo, queste azioni dovrebbero essere non soltanto puntuali una tanto, ma dovrebbero essere continuative 365 giorni l'anno, estese a tutto il territorio nazionale, a tutte le entrate nazionali, da e per l'Europa, da e per il resto del mondo. Ovviamente questo è una sollecitazione, un augurio e una sollecitazione al ministro competente o ai ministri competenti, perché in Italia ci siano sempre prodotti affidabili, soprattutto dal punto di vista dell'igiene. Tra l'altro c'è subito un ascoltatore, ecco, proprio a quest'ultima parola che lei ha citato, Mastrantoni, mi aggancio, perché prima ci diceva il presidente della Confesercenti, che richiamo subito, Marco Venturi, anche noi ci dobbiamo confrontare ogni giorno con tutti l'enorme, non so poi quanto sia enorme, massa di venditori abusivi che appunto praticano il commercio di certi prodotti che invece dovrebbero avere controlli serratissimi, una tracciabilità molto rigida. E io così avevo fatto una battuta sulla questione dell'abusivo, del venditore abusivo che non necessariamente vende prodotti avariati. Detto questo, un ascoltatore mi ha subito ovviamente bacchettato: ma lei mangerebbe carne o pesce venduta abusivamente senza controlli e tracciabilità? Ha ragione, no, è ovvio che farei una grande attenzione. Presidente Venturi, magari se vuole ribadire questo aspetto, però le metto insieme anche un altro tema, quello cioè dell'elemento della sicurezza alimentare per favorire i consumi. Dicevamo, quest'anno il ministro Zaia ha intrapreso numerose azioni su molti versanti, qualcuno dice sicuramente anche un'ampia campagna mediatica da parte di questo ministero, forse anche necessario, no? Mettere bene in evidenza quello che si fa per far capire quanto lavoro c'è dietro anche alle garanzie nell'ambito alimentare, no? Che ovviamente sono assolutamente fondamentali anche per un buon andamento del consumo in senso generale, Presidente. Certo, infatti noi siamo d'accordissimo su una campagna di sicurezza alimentare. Questo è fondamentale per i cittadini, per i consumatori, ma anche per gli stessi commercianti. È bene posizionarsi sui prodotti di qualità, quindi prodotti sani e prodotti di qualità. L'Italia ha molto da guadagnare alzando il livello della qualità dei prodotti venduti e quindi da parte nostra c'è questa attenzione al consumatore, perché riteniamo che bisogna escludere quella parte che vende senza regole, senza nessuna remora, diciamo, prodotti anche non sani. Il tema della sicurezza alimentare è un elemento per far riprendere i consumi in questo momento, Presidente, è anche una strada aggiuntiva alle numerose che dovranno essere inevitabilmente praticate dalla sua associazione come dalle altre? Certamente, sicuramente anche una campagna in questa direzione, anche sul prodotto nazionale, credo che possa servire molto ad alzare l'attenzione dei consumatori, quindi la disponibilità anche a consumare, sapendo che compra dei prodotti sani che non riservano sorprese a qualunque livello, sia prodotti agricoli sia per quelli ittici, quindi è importantissimo che ci sia questa forma di attenzione. Intanto, come dicevamo, è chiaro, questo è tempo di bilanci di fine anno, anche Confesercenti ha stirato il suo, poi arriveranno più avanti anche dati assolutamente più aggiornati su come sono andate le vendite in questa ultimissima parte dell'anno. Per quello che riguarda le associazioni dei consumatori, non quella che abbiamo oggi ospite, ne ho viste altre nel periodo di Natale, qualcuno ha parlato di un crollo dei consumi in senso generale del 20%, vedremo se queste cifre saranno confermate anche da chi vende, quindi dai commercianti, dai centri commerciali e quindi da tutta l'area appunto del commercio. Intanto però Confesercenti, vi dicevo, e adesso il Presidente ce la spiegherà meglio, ha stilato anche i risultati di un sondaggio che è stato condotto per cercare di capire quale sarà invece l'orientamento degli italiani per il cenone di Capodanno. Sarà l'insegna del risparmio più consistente di quanto speso per il Natale. Cenone di Capodanno all'insegna del risparmio più consistente di quanto speso per il Natale. Presidente, cosa vuol dire esattamente? Ma vuol dire che intanto ci sarà, la stretta c'è, c'è stata a Natale, c'è stato a Capodanno, non ci sono i crolli che indicano queste associazioni dei consumatori, perché bisogna mantenere un equilibrio nelle cose, e quindi noi abbiamo registrato per esempio un 4% che rinuncerà ai festeggiamenti, che sta rinunciando ai festeggiamenti natalizi, di Capodanno, eccetera. Non 50% come indica qualche associazione di consumatori. Credo che questo, e non mi riferisco all'ADUC. Adesso ce la facciamo dire loro che percentuale hanno stimato, quindi vediamo se si avvicina o meno alla nostra. Credo che non si voglia bene al Paese, che si cerchi di creare un clima di pessimismo assoluto, perché quando si parla del 50% che non sono in grado di partecipare in qualche modo ai festeggiamenti del Natale, vuol dire non solo non favorire, ma creare un clima negativo nel Paese, che quindi non porta ai consumi, e quindi questo vuol dire produzione, perché non si tratta solo di consumi, che non tiene conto che ci sono chiusure a largo raggio da parte delle imprese commerciali. Noi abbiamo registrato quest'anno, visto che ancora siamo agli ultimi giorni del 2008, 52.000 imprese del commercio e del turismo in meno, quindi non parlo di quelle che hanno chiuso, perché ogni anno ne chiudono e ne aprono e quindi c'è una compensazione. Quest'anno siamo a meno 52.000 saldo come negativo. Risultato come saldo, quindi è un fatto estremamente negativo da un punto di vista per esempio occupazionale, quindi non è solo un problema del commerciante, anzi quelli che chiudono non sono più commercianti, quindi sono normali cittadini che non hanno più nemmeno l'etichetta di commercianti, quindi c'è un problema del Paese. Quando questi dati, e poi non conosciamo quelli dell'artigianato, quindi ci saranno altri probabilmente risultati che si aggiungono a questo, e questo vuol dire in termini di occupazionali, di crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese, sicuramente dei risultati estremamente negativi. Per questo noi abbiamo insistito con il governo sulla necessità di alcuni interventi immediati. Il governo ha già previsto, lo ha indicato, un intervento sugli studi di settore, però bisogna eguagliare, bisogna dargli sostanza, diciamo, a questo intervento sugli studi di settore, perché non si può far finta che le imprese sono come nelle stesse condizioni degli anni di crescita, quindi bisogna rivedere quindi tutte queste cose, sostenere la stessa domanda dei consumatori, agire per esempio sulle infrastrutture. Allora, dove si prendono i soldi? C'è un dibattito aperto su questa questione delle province. Noi abbiamo lanciato da anni che facciamo una battaglia sul superamento delle province, e poi si fanno i numeri e si dicono: ma ci sono quasi 5.000 consiglieri, assessori nelle province, ma non può essere che i cittadini paghino e profumatamente, diciamo, la collocazione politica di alcuni rappresentanti politici, insomma. Bisogna avere il coraggio di mettere le mani su alcune cose, ricreare risorse, reinvestire con queste risorse in maniera produttiva per creare sviluppo e benessere. Insomma, lei dice se c'è crisi dei consumi non è che se la devono vedere solamente i commercianti abbassando i prezzi, qua deve proprio innescarsi un circolo virtuoso che coinvolga a 360 gradi tutta la comunità, da quella politica inevitabilmente, perché da lì poi il messaggio deve partire fino ad andare ad estendersi al settore amministrativo e di conseguenza via via a tutti gli altri settori. Però poi, Mastrantoni, torno da lei, naturalmente non mi sono dimenticata. Detto tutto questo, siamo partiti dal cenone di Capodanno per arrivare all'eliminazione delle province, presidente Venturi. Quello che mi stavo chiedendo è se lei si è sentito adesso di farci un discorso così ampio, toccando anche il drammatico, perché non è per niente bello questo dato che lei ci ha dato, un saldo negativo di imprese che hanno chiuso nel vostro settore, 52.000 imprese in meno quest'anno. Quello che ci vuol dire è che è ovvio che il dato sul cenone non è per niente indicativo in questo senso, ma ritenete che la crisi stia già mordendo o dobbiamo ancora vedere il peggio che arriverà nei prossimi 3 mesi? Qual è la percezione che avete? Ma la percezione è quello che arrivano i segnali e poi avremo gli effetti. D'altronde le previsioni sono tutto meno che rose, e quindi noi dobbiamo tenere conto di questo. Per esempio c'è un dato nell'indagine che noi abbiamo fatto fare a un istituto di ricerca, per esempio questo del cenone, del veglione. C'è un leggero calo per esempio su questo punto, ma c'è per esempio un punto positivo sulle vacanze natalizie, quindi insomma, ecco, la gente vuole ancora, ha voglia ancora di fare, di divertirsi, di fare le vacanze, di andare sulla neve, però poi deve restringere tutto il resto, perché comunque rimane questa paura. E quindi c'è un elemento reale di difficoltà, c'è un elemento di preoccupazione che incide da un punto di vista psicologico su queste scelte, però ecco, sulla vacanza abbiamo registrato, stiamo registrando un dato invece tutto sommato positivo. No, tra l'altro vedo che ci ha raggiunto anche il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, e Giuseppe Politi. Presidente Politi, buonasera. Buonasera a lei. Le chiedo un minuto di pazienza, perché visto che siamo arrivati al punto delle vacanze e voi avete una rilevazione molto interessante su questo, le chiedo un attimo di pazienza, così come la chiedo a Mastrantoni, ma se vuole posso salutare anche Marco Venturi. Ci sentiamo, i suggerimenti per chi è in viaggio tra pochissimo. Focus Economia. Tentando di analizzare quanto sta mordendo sui consumi questa crisi, il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, analizzando la questione a 360 gradi davvero, è arrivato al punto vacanze. Tutto sommato, se si riesce a guadagnarsi comunque una piccola vacanza in questo Natale, un po' di sacrifici per tutti, ci si sente un po' meno poveri, un po' meno obbligati a ridurre il nostro budget e quindi anche i nostri consumi in senso generale. Giuseppe Politi, presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, ancora buonasera. Lo abbiamo interpellato perché CIA, insieme a Turismo Verde, che è l'associazione per l'agriturismo appunto della Confederazione Italiana Agricoltori, ha monitorato questa tendenza molto interessante. Si prospetta una fine d'anno d'oro, almeno raccontiamolo una buona notizia in questo anno in cui facciamo fatica davvero a trovarne, un inizio d'anno da tutto esaurito per gli agriturismo nel nostro paese. Presidente, è davvero così? Sì, è così. Sicuramente anche effetto della crisi finanziaria, delle difficoltà di tante famiglie che in pratica fanno una scelta nel rapporto qualità-prezzo e poi a contatto, diciamo, con la natura, mangiando piatti tradizionali, prodotti tipici italiani, e sicuramente risparmiando rispetto a quello che normalmente si paga in altri settori, insomma. E quindi registriamo, come dire, il tutto esaurito, anche se bisogna stare sempre attenti sulle permanenze, che sono, come dire, permanenze molto brevi, sicuramente non sono permanenze lunghe, ecco. Vedo che le mete più gettonate, anche per la vicinanza delle stazioni sciistiche, sono ancora la vostra segnalazione, appunto, quelle del Trentino, del Veneto, dell'Abruzzo e del Piemonte. Comunque, insomma, come dire, ci sarà anche un po' l'occasione per riscoprire la nostra Italia, il nostro paese, magari anche da parte di chi invece non l'ha molto praticata negli ultimi anni perché preferiva andare all'estero. Quest'anno invece forse ci sarà anche l'occasione, anche questa forse una bella faccia della medaglia della crisi a cui non avremmo pensato negli ultimi anni. Leggevo che voi segnalate nella vostra indagine, Presidente, merito anche, ecco, l'aspetto dei prezzi, ce lo specifica un po'? Noi abbiamo monitorato un po' anche i prezzi, diciamo, del costo del cenone, e quindi dal nord a sud a centro sicuramente ci stanno delle differenze, come dire, importanti, perciò che riguarda il prezzo. Si spende sicuramente molto meno a sud, si spende di più al centro e al nord, però abbiamo ricavato una media che non supera i 50 euro, diciamo, per ciò che riguarda il cenone, ovviamente togliendo eventuali, come dire, servizi che accompagnano il cenone. Il prezzo proprio del cenone, da un monitoraggio che abbiamo fatto presso le nostre aziende, mediamente si aggira intorno alle 50 euro, quindi rispetto a prezzi normali, diciamo, per ciò che riguarda il cenone nella ristorazione o in altri locali, sicuramente c'è un risparmio, e in più posso gustare veramente prodotti tipici, prodotti diciamo della tradizione, fortemente legati al nostro territorio, insomma. Presidente, no, segretario dell'ADUC, Primo Mastrantoni, in base a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, è possibile già intercettare quelle che saranno le principali tendenze fra i consumatori il prossimo anno? Adesso lasciando da parte ovviamente il tema della sicurezza alimentare, di cui speriamo di dover parlare pochissimo l'anno prossimo, però sicuramente c'è un orientamento nuovo nei consumi, si cercherà il risparmio, non probabilmente a discapito della qualità. Forse il consumatore italiano su questo è un po' più restio ad effettuare delle rinunce. Ci riuscirà in epoca di crisi? Diciamo che la crisi deve ancora dispiegarsi completamente, quindi ci sarà un minor rapporto di lavoro, cioè gente meno occupata e quindi meno disponibilità di denaro. Voglio dire, il dato della Confesercenti sulla chiusura dei negozi è un indice anche in questo senso. Per far aumentare i consumi e quindi consentire all'economia di ridecollare, occorre mettere dei soldi in mano ai consumatori. Questo si fa da una parte diminuendo le tasse, molto semplicemente, le tassazioni complessivamente, e dall'altra parte razionalizzare le spese, dall'altra parte ancora, questo riguarda i commercianti, anzi diminuire i costi. Io ricordo che fino all'anno scorso a Roma per andare a cena fuori occorreva accendere un mutuo, insomma, quindi i costi della ristorazione erano piuttosto elevati. Quindi ci sarà un anno chiaramente di minor disponibilità, maggior oculatezza ovviamente, e alla ricerca anche della qualità del prodotto, perché ormai il consumatore non si accontenta più dell'offerta magari con i brillantini intorno, no? O le lucette intorno, ma vuole un prodotto di qualità a un giusto prezzo, cioè il vecchio detto, ok, il prezzo è giusto, cioè quel prodotto vale quel prezzo, mi pare che si sia sempre più diffondendo nella mentalità del consumatore. Il consumatore non è più disposto, insomma, a spendere qualunque cifra per comprare un qualsiasi prodotto alimentare o non alimentare che magari non abbia anche un po', non segue i criteri della qualità del prodotto stesso. Quindi vanno bene determinati prezzi, questi prezzi devono rispondere però alla qualità del prodotto in tutti i sensi e anche nei servizi, che spesso in Italia lasciano a desiderare. Noi tra l'altro in una puntata di Salvadanaio ci siamo occupati proprio di questo ed effettivamente avevamo focalizzato la nostra attenzione proprio anche su questi aspetti. Io direi che abbiamo messo in campo oggi tutti gli aspetti che saranno oggetto della massima discussione possibile il prossimo anno, speriamo anche con esiti positivi, e speriamo che questo momento di difficoltà che molti continuano a sostenere di non vedere, perché poi vedono molti carrelli pieni ancora ai supermercati. Molti invece vedono, e molto drammaticamente. Speriamo che comunque tutto questo passi abbastanza rapidamente per parlare il prossimo anno dei consueti bilanci, ma con toni ben differenti rispetto a quest'anno. Grazie al presidente della CIA Giuseppe Politi, buonasera. Grazie, buonasera a lei. Grazie anche a Primo Mastrantoni, segretario ADUC, a presto. Buon anno a tutti. Abbiamo già salutato Marco Venturi, presidente della Confesercenti. Lasciamo tutti i rivoli della crisi economica, i consumi che languono, il cenone di Capodanno e l'operazione Capitone, per andare invece adesso a questa ultima giornata dell'anno di borsa. Guido Maurino, collega di Radio Cori del Sole 24 Ore, ci tocca di fare insieme questo ultimo bilancio dell'anno della borsa, no? Sì. Un bilancio positivo, peraltro. Vedo oggi la prima a chiudere la sessione è stata Francoforte, che ha chiuso i battenti alle 14.15, più 2,24%, un momentino di difficoltà a metà pomeriggio e poi sprint finale, vedo, per tutte le piazze finanziarie europee. Sì, è andata proprio così. Alla fine della seduta, in qualche modo, anche i dati provenienti dagli Stati Uniti sono in qualche modo stati mitigati. Si tratta, come sempre in questi giorni, di sedute con scambi molto ridotti, con la maggior parte degli operatori che sono in vacanza. Comunque, diciamo che, se può essere benaugurante, l'ultima seduta si è chiusa col segno più. Più 1,53% sull'S&P MIB. Infatti diamo magari un'occhiata anche a quelli che si sono comportati meglio. Beh, cioè, per Prismian è tutto un programma, è più 3,74% nelle ultime due giornate, ha fatto tutto il contrario e evidentemente gli operatori si sono accorti che forse più di lì non poteva andar giù e hanno ricominciato a comprarla. Guido. Sì, perché alla fine diciamo che Prismian è un titolo che si muove in questi giorni in modo molto nervoso. Nel corso della stessa seduta può scendere, può risalire, e appunto oggi ha chiuso, come dicevi tu, in terreno positivo, ha guadagnato il 3,74% dopo essere stato a metà mattina il peggiore del listino. Come diciamo spesso su questo titolo, non ci sono mai particolari ragioni che lo giustifichino, se non nel fatto che nel capitale della società ci sono molti fondi internazionali, con Goldman Sachs ad esempio che è primo azionista. In questa fase ci sono molte anche scadenze tecniche che giustificano in qualche modo un andamento anomalo per il titolo. Altra protagonista della giornata, Unicredito, per tutto l'anno, per la verità ne abbiamo parlato moltissimo. Oggi però dal gruppo di Piazza Cordusio, più 3,38% sul finale, sono arrivate davvero numerose notizie. Sì, è stata una giornata dove si sono inseguite numerose notizie, da quella in qualche modo anticipata ieri, che l'ha controllata Bank of Austria, poi oggi ha annunciato ufficialmente la cessione per 1,1 miliardi alla fondazione BNC dei diritti di compartecipazione agli utili in alcune società. Questo genera una plusvalenza per Unicredit superiore, diciamo, ai 150 milioni. In serata, inoltre, insomma, è arrivata anche la notizia che è stato ceduto il 3,3% di Atlantia, con una plusvalenza sempre per Unicredit di 157 milioni. Insomma, per rafforzare la patrimonializzazione, ma non solo, Unicredit davvero ha messo in campo tutto ciò che poteva fare quest'anno, anche concessioni importanti come questa quota appunto in Autostrade, di cui abbiamo appreso appunto stasera la cessione appunto al fondo di Abu Dhabi, come ci raccontava adesso Guido Maurino. Abbiamo ancora un paio di minuti di tempo. Mondadori, più 2,80, Eni, più 2,70, Generali, più 2,58%, Enel più 2,55%, l'ex Autostrade più 2%, A2A più 1,76%, Fiat più 1,72%. Tra l'altro Fiat si è ripresa oggi, ma ha toccato i minimi assoluti dalla crisi del 2005, se non sbaglio, Guido. Sì, esatto, diciamo che oggi ha recuperato leggermente terreno a Piazza Affari dopo il calo dell'1,04% registrato ieri, quando il titolo è andato sotto i 4,53 euro, che è stato un po' un limite considerato molto importante, perché era quello segnato nell'aprile 2005, quando appunto la casa torinese era in piena crisi. Oggi invece la giornata è andata un po' meglio, Fiat ha riguadagnato quota 4,59 euro, in rialzo dell'1,72%. La palma del peggior titolo di oggi, ma per la verità questa palma gli tocca anche in assoluto come peggior titolo dell'S&P MIB dall'inizio dell'anno, va a Seat Pagine Gialle, -1,69%, non aveva neanche fatto in tempo a comunicare della rinegoziazione della ristrutturazione del debito con Royal Bank of Scotland. Ieri aveva un po' brindato su questa notizia, ma già oggi questo brindisi è sfumato, Guido. Sì, e come dicevi tu, sostanzialmente dopo aver guadagnato un attimino di terreno ieri, oggi è di nuovo scesa, è stato, come dicevi tu, il titolo peggiore, ha perso l'1,69% a 0,0581 euro. Per tutto l'anno, diciamo, è stato un titolo bersagliato dalle vendite, come dimostrano anche poi le classifiche che ha diffuso oggi Borsa Italiana e i dati che noi abbiamo davanti ai terminali. La flessione dall'inizio dell'anno è quasi pari all'80%. Guido, abbiamo 20 secondi di tempo, abbiamo il bilancio della Borsa Italiana. Chi è la regina del 2008? La regina del 2008 paradossalmente è una società molto piccola, perché Bastogi, che è una società che ha vissuto quest'anno un'operazione, una società diciamo che fa capo alla famiglia Cabassi, aveva vissuto quest'anno un'operazione di scissione proporzionale inversa, per cui ha scambiato diciamo alcuni asset con Brioschi. Ne ha beneficiato moltissimo, anche se è appunto una società con una capitalizzazione molto limitata, ed è quella che quest'anno ha guadagnato di più con un +48%. Mentre la peggiore è stata Cell Therapeutics, che ha perso praticamente il 99%, il 97% o qualcosa del genere. Grazie a Guido Maurino per essere stato con noi. Guido, buon anno. Buon anno. All'anno prossimo, ci fermiamo. GR, noi torniamo subito dopo. Sono le 18.07, ancora buonasera, Deborah Losciani, è l'ultima puntata anche per me, quindi un pochino faticosa, mi incespico abbastanza facilmente, però insomma cercheremo di portarla a casa per darvi il quadro di questa ultima giornata e di borsa, e ovviamente essendo una puntata che ha dovuto dedicare larga parte anche al tema dei bilanci di fine anno, abbiamo parlato in apertura del tema dei consumi, come è andato questo mese di dicembre, come sarà il cenone di Capodanno, e ci abbiamo intrecciato anche il tema della sicurezza alimentare alla luce della maxi operazione contro il pesce avariato, appunto, che è stata condotta e coordinata anche dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo avete sentito nell'intervista al Ministro Luca Zaia: 160 tonnellate di pesce contraffatto sequestrato in 14 regioni d'Italia, quindi attenzione a quello che mangiamo in questa fine d'anno, occhio non solamente al prezzo e a quanto spenderemo, su quello siamo già d'accordo tutti che cercheremo di fare una grande attenzione, e cerchiamo anche di focalizzare la nostra attenzione sulla produzione italiana. Questa è una grande battaglia di quest'anno del ministro Zaia, ma al di là di quello che fa il ministro e il governo, ovviamente anche nel nostro interesse cercare di individuare l'origine dei prodotti che consumiamo, e quindi ovviamente ci possiamo tutelare al meglio anche contro questi pericoli. E poi ovviamente non abbiamo potuto parlare di borsa. Oggi è una giornata che si chiude molto positivamente per gli indici europei, Milano +1,53%, abbiamo toccato prima con Guido Maurino i migliori temi di Piazza Affari di questa seduta, cercando anche di anticipare rapidamente quello che è il bilancio che è stato pubblicato oggi dalla Borsa Italiana su questo anno terribile per la finanza, qual è stato il bilancio definitivo per Piazza Affari. Gli indici perdono circa il 50%, un po' di più del resto d'Europa, lo abbiamo detto anche stamattina a Salvatanaio, anche perché Milano ha diverse problematiche, non ultima quella del fatto di essere considerato un po' un paese un po' meno affidabile dal punto di vista degli investimenti, mettiamola così in termine generale, un aspetto che si vede anche da un altro punto di vista, di cui abbiamo parlato più volte da questi stessi microfoni, e cioè i livelli record che ha raggiunto il differenziale di rendimento rapporto fra il BTP decennale e il Bund tedesco, oggi a 145 punti, è il livello record dall'introduzione dell'euro. Cosa vuol dire tutto questo? Ce lo facciamo spiegare, come ha già fatto altre volte, dal nostro Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a voi. Torniamo tra l'altro a fare un commento su questo argomento, anche alla luce di nuove aste del tesoro che sono state organizzate fra ieri e oggi, che ancora una volta hanno testimoniato come i rendimenti sui titoli di Stato stiano continuando a scendere. Questo è probabilmente anche un tema che caratterizzerà in tutta probabilità, poi ovviamente abbiamo scoperto quanto sia assolutamente impossibile fare previsioni e nessuno in grado di azzeccare un bel niente. Vedremo però insomma come potranno essere poi le tendenze del prossimo anno, in cui non solo l'Italia ma tutti i governi e dell'Eurozona ma non solo dovranno fare un massiccio ricorso al mercato per finanziare anche i piani di sostegno all'economia che sono stati messi in campo in questo momento. Tornando però a noi, che cosa vuol dire, Moria, questo 145% che comincia, questi 145 punti che cominciano ad essere un indicatore che comincia a questo punto a preoccuparci non poco? Sì, questo indicatore ci dice che è vero che i rendimenti, come dicevi tu, sono molto bassi e l'aste di oggi dei BTP lo confermano, continuano a scendere, sono molto bassi perché questa è anche la volontà e la politica monetaria che stanno seguendo le banche centrali sul breve termine, che anche è sul lungo termine, sia in America che anche in Europa. Però le differenze tra i vari paesi, tra i titoli di Stato dei vari paesi, si allargano. I paesi ritenuti meno affidabili hanno rendimenti in termini relativi più elevati rispetto ai rendimenti dei paesi ritenuti più affidabili. In questo caso l'Italia, con il suo debito pubblico storicamente gigantesco, è ritenuto ovviamente molto meno affidabile della Germania, e quindi in un contesto di grande incertezza in cui gli investitori cercano di acquistare titoli il più sicuro possibile, ovviamente si spingono sui titoli tedeschi rispetto a quelli dell'Italia, rispetto a quelli della Grecia, del Portogallo e di altri paesi ritenuti più periferici. Quindi in questo senso, nonostante i rendimenti in termini assoluti continuino a scendere, il differenziale tra i vari titoli di Stato continua ad allargarsi, addirittura è arrivato, come dicevi tu, al massimo da quando esiste la lira, quindi quando ancora non esisteva l'euro e quindi l'Italia aveva una valuta diversa e problemi ovviamente molto diversi. E questo si riflette proprio, il senso è che il mercato percepisce un rischio sistemico e un rischio paese, quindi inizia ormai lo fa da tanto tempo a differenziare i vari paesi, quindi a scegliere i titoli di Stato che preferisce acquistare. Questo anche in un'ottica di numerose emissioni di titoli di Stato che arriveranno l'anno prossimo e stanno già iniziando ad arrivare, che ovviamente affolleranno il mercato e quindi gli investitori a maggior ragione fanno una selezione e quindi scelgono quelli che preferiscono, quelli che ritengono più solidi. Ecco, però abbiamo notato anche in queste ultime due aste come in ogni caso la domanda per i titoli di Stato italiani si continui a mantenere piuttosto alta, a scapito ovviamente dei rendimenti, però è una domanda molto alta, quindi significa che la domanda ancora non risente di questa considerazione del rischio paese per quello che riguarda l'Italia, Moria, oppure comunque sono due aspetti che non hanno nulla a che fare? La domanda c'è, anche se bisogna sempre ricordarsi che le aste dei titoli di Stato hanno un meccanismo con una serie di banche che sono definite specialisti, che hanno un incentivo a partecipare in asta, quindi le aste hanno un meccanismo che garantisce in un certo senso la domanda. La domanda comunque è stata forte soprattutto ieri sui bot, che è solitamente una domanda di risparmiatori, comunque di gente che vuole parcheggiare la liquidità per 3-6 mesi in attesa di tempi migliori, quindi la domanda c'è. Però diciamo è anche supportata soprattutto sui titoli di Stato a lunga scadenza da un meccanismo voluto, ovviamente fatto apposta, delle aste di collocamento dei titoli di Stato in asta, che comunque garantisce sempre che ci sia una domanda. Questa mattina stavamo commentando questa tendenza anche con un ospite di Salvadanaio, al quale chiedevo di spiegare ai nostri ascoltatori come mai la borsa italiana ha perso in media circa un 10% in più rispetto ad altre piazze finanziarie, come per esempio è accaduto proprio con la Germania, visto che stiamo facendo questo parallelo fra i titoli decennali in questo momento. E lui mi diceva: a parte la composizione del listino, abbiamo detto mille volte, molto esposta nel settore bancario, di conseguenza pesando molto questo comparto che è stato l'epicentro della crisi, è chiaro che il listino dovesse perdere di più. Però c'è anche l'aspetto intimamente legato con il meccanismo che stavamo spiegando adesso, cioè il fatto di considerare il rischio paese per quello che riguarda l'Italia più alto rispetto ad altre economie significa anche tenersi un po' più lontani dalla borsa italiana. Quindi stanno andando di pari passo questi due aspetti. Anche questa è una cosa strana secondo te, Moria, oppure no, ci sta? A me non stupisce perché del resto c'è anche un altro indicatore, i cosiddetti credit default swap, che sono delle polizze assicurative contro il default di qualunque emittente obbligazionario, tra cui l'Italia ma anche la Germania e gli Stati Uniti. Ecco, i credit default swap dell'Italia, anche quelli sono sui massimi storici, attualmente sono a 157 punti base, cifre mai viste nell'era dell'euro, e questo significa che il mercato sinceramente prezza un rischio paese. Poi questo non vuol dire che il mercato è convinto che l'Italia vada in default, ovviamente, però significa che il mercato seleziona e fa differenza tra i vari paesi. D'altra parte, in un paese come l'Italia, che ha storicamente un debito, si tramanda dagli anni passati, un debito pubblico molto elevato, in un momento di crisi finanziaria come questa, il paese che quindi ha minor possibilità di intervento a sostegno dell'economia, perché già ha un fardello alle spalle che si porta indietro da anni, e quindi paga, l'Italia oggi sta pagando quello che si, diciamo, il fardello di debito pubblico che si è portato indietro sulle spalle per decenni. Fino agli anni scorsi questo fardello non preoccupava, anzi i titoli di Stato erano particolarmente apprezzati perché c'era un contesto assolutamente tranquillo. In un momento di crisi ovviamente il campanello d'allarme si accende, soprattutto per paesi come l'Italia. E ripeto, non è solo l'Italia, perché ci sono anche il Portogallo, la Grecia, tutti i paesi stanno soffrendo. Ecco, ci sono altre situazioni di anomalia, se anomalia poi la vogliamo chiamare, come questa, come questo rapporto fra il Bund tedesco e il BTP italiano, altri rapporti, perché l'altra volta parlavamo, sempre in un contesto in cui abbiamo analizzato lo stesso fenomeno, Mori, anche mi pare della Grecia e del Portogallo ci parlassi. Esattamente, la Grecia è molto più alta dell'Italia, adesso non ho qui il dato sullo spread, ma per esempio il credit default swap, cioè queste polizze, quanto costa assicurarsi contro default della Grecia, è 200, attualmente 236 punti base, l'Italia 157, quindi nettamente più alta la Grecia rispetto all'Italia, anche il Portogallo è così. Il discorso è sempre lo stesso: nel momento in cui gli investitori devono scegliere cosa acquistare, preferiscono acquistare i Bund, cioè i titoli di Stato tedeschi, perché la Germania è un paese storicamente centrale, è un paese che tra l'altro ha anche un future molto forte, quindi storicamente gli acquisti vanno lì, ma soprattutto è un paese ritenuto più solido e che non ha alle spalle un debito pubblico come il nostro. Moria, chiarissimo, grazie per essere stato con noi, buon anno. Buon anno anche a voi. Naturalmente spenderemo in ogni modo possibile nel 2009 per disturbarti e venirti ancora a farci a spiegarci appunto il funzionamento anche di queste dinamiche, che a volte sono piuttosto complicate, ma sempre utile anche apprendere. Noi ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi abbiamo l'ultimo tema da analizzare, che è questo dato sui prezzi della produzione industriale in calo molto intenso nell'ultima rilevazione di novembre, e dal professor Luigi Campiglio, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, ci faremo spiegare insomma tutti i termini di questo dato aggregato ma anche disaggregato, perché ci sono delle appunto situazioni interne molto interessanti da esaminare. A tra poco. Focus Economia. Sono 18:19, ultimissima parte di Focus Economia, torniamo per certi versi anche al tema con cui abbiamo iniziato questa puntata e che è oggetto di molte puntate, di molti nostri contenitori, di molti nostri approfondimenti, il tema in senso generale dell'inflazione. Oggi abbiamo avuto il dato, l'indicatore sui prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che a novembre hanno registrato una diminuzione dell'1,6% rispetto al mese precedente, quindi rispetto ad ottobre, mentre c'è stato un aumento del 2,3% rispetto al novembre di un anno fa. Il calo congiunturale consistente è il più ampio dal 1980, cioè da quando l'Istat ha iniziato questa rilevazione, ed è dovuto soprattutto al calo dei prodotti petroliferi raffinati. Lo sappiamo che in un mese sono diminuiti del 13%, in un anno del 20%, altri record da sempre, effettivamente in un anno meno 20%, chissà quando mai si è visto. Professor Luigi Campiglio, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, è considerato un luminare dell'inflazione, uno dei massimi esperti in materia delle dinamiche dei prezzi non solo nel nostro paese ma in senso generale. Professor Campiglio, grazie per aver scelto di spendere questa ultima parte dell'anno insieme a noi. No, grazie a lei, non esageriamo. Senta, allora, che cosa ci suggerisce questa dinamica? Non ci deve sorprendere, ovviamente abbiamo visto quello che ci ha riservato il petrolio quest'anno, non è che poi sui prezzi della produzione ci dovessimo aspettare molto meno, però insomma balza in ogni caso all'occhio il record, no? Il calo più consistente dal 1980 addirittura. Sì, l'impatto della diminuzione dei, in particolare dei prodotti petroliferi è stato sul mese in particolare veramente forte, perché è diminuito del 13% novembre su ottobre. La dinamica interna peraltro è ancora abbastanza differenziata, perché per quanto riguarda il comparto delle commodities in generale, tutte le commodities sono salite in primavera fino a maggio-giugno e in particolare ancora il settore alimentare, quindi grano turco, mais, riso eccetera, ha registrato forti aumenti che ancora non si vedono in termini di diminuzione. Quindi questo è, diciamo, il primo elemento su cui porre una certa attenzione, il tema della vischiosità, diciamo, dell'ambito alimentare. Sì, esatto, è un tema da capire meglio, perché soprattutto se uno confronta questi dati del comparto alimentare, che avevano giustamente dato qualche preoccupazione nella primavera, con gli altri paesi, emerge un dato importante, cioè se confrontiamo l'Italia con la Francia e con la Germania, la riduzione dei prezzi alimentari è in Germania e Francia consistente, e in Italia al consumo, sto parlando, rimane sostanzialmente, il tasso tendenziale rimane sostanzialmente stabile, ma anche novembre su ottobre ancora un più 0,1. Quindi diciamo la caduta dei prezzi delle commodities alimentari fa fatica, diciamo, arrivare ancora sul banco dei consumatori. Ecco, questo quindi ci dà l'opportunità, magari, professor Campiglio, le faccio fare anche il professore per un po'. Sì. Che cosa sono esattamente i prezzi alla produzione industriale? Perché è così importante anche valutare la loro dinamica in un'ottica poi di trasferimento sui banconi dei supermercati, no? Di ciò che acquistiamo. Noi abbiamo letto dei libri di economia che definiamo il prezzo della produzione industriale in pratica il primo stadio di commercializzazione dei beni. Sì, come dice lei giustamente, è il primo stadio. Fra questo primo stadio e il banco del supermercato c'è la cosiddetta catena alimentare, ma diciamo la catena distributiva in generale, di cui non sappiamo altrettanto bene sul piano informativo di quanto si sappia sulla prima fase e l'ultima. Non dico che sia in mezzo necessariamente che tutto il problema si crea. Indubbiamente avremmo qualche elemento in più di conoscenza, e forse, perché no, anche di concorrenza, se potessimo avere un'informazione sugli stadi intermedi, gli aumenti legittimi di prezzi e soprattutto, come lei accennava all'inizio, questa vischiosità che si avverte in Italia, soprattutto in un dato aggregato che personalmente trovo questo sia un pochino preoccupante, cioè che pur in questa diminuzione, anzi soprattutto in questa diminuzione dei prezzi generalizzata, si riapre il divario tradizionale fra Italia, Germania e Francia, cioè il tasso di inflazione italiano tende a essere un punto superiore di nuovo rispetto alla Germania e mezzo punto grosso modo rispetto alla Francia. Io però immagino che lei un'idea chiara su dove il meccanismo si inceppi sul trasferimento ai prezzi finali poi ce l'abbia, perché non credo che un luminare di inflazione non abbia un'idea chiara anche su questo, o no? Ma sì, un'idea. Abbiamo parlato in migliaia di volte delle problematiche della filiera e quant'altro, però anche in una fase come questa, in cui la crisi dei consumi è sotto gli occhi di tutti, poi la possiamo enfatizzare così come la possiamo sminuire, però c'è e di conseguenza qualcosa da quel punto di vista per alleviare un po' le problematiche delle famiglie si dovrà fare. Secondo lei, il punto del meccanismo in cui dice lei in cui si inceppa, verrà alla luce o no? Secondo me sì, non vorrei essere troppo generico, ma dato i tempi sono un po' obbligato, cioè diciamo in senso ampio occorre certamente più concorrenza. Faccio un esempio concreto, le arance al supermercato oggi vanno a un euro, a più di un euro e mezzo, un euro e 70 al chilo. Molto spesso questi i camioncini che arrivano dal sud e distribuiscono diciamo i loro prodotti freschi a Milano sono in grado di fare un profitto e vendere lo stesso prodotto a volte più buono a un euro, anzi a meno di un euro. Ci sono certi prodotti che purtroppo non possono fare a meno di fare certi trasporti, come per esempio la buona arancia siciliana, sicuramente non possiamo pretendere di comprarla in Friuli piuttosto che in Veneto, professor Campiglio. Certo, però questo dà un'idea, da un lato che esiste la possibilità di farlo in alcuni casi e dall'altro di quanto sia ampio il margine su cui intervenire. È molto ampio secondo lei? Direi che lo è abbastanza, perché questo a mio parere riflette un po' la situazione di eccessiva frammentazione della nostra struttura distributiva. Questo è il punto. Sì, questo tra l'altro è un tema che abbiamo spesso affrontato toccando la questione del trasferimento, per esempio, del ribasso del prezzo del petrolio e quello che poi succede al distributore, alla pompa di benzina. Anche la scarsa, come dire, proprio efficienza distributiva effettivamente determina anche questa lentezza, no, nel trasferimento di questo aspetto. Questo è uno dei tanti che sicuramente poi sarebbero molti da poter toccare. Detto questo, professor Campiglio, come possiamo concludere? Tutto sommato, se questo trasferimento sui prodotti finali, poi sui prezzi finali, fosse immediato, secondo lei oggi l'inflazione, l'indice dei prezzi al consumo viaggerebbe a livelli ben inferiori? Anche se già abbiamo visto poi una tendenza molto marcatamente verso il ribasso, insomma, addirittura tanto da parlare in problema deflazionistico nel nostro paese come in tutto il mondo. No, non voglio paventare scenari di questo genere, per carità del cielo, ma tenga conto che sui prezzi, i prezzi al consumo, i tassi tendenziali oggi in Italia a novembre sono del 2,7% e in Germania dell'1,4%, sto parlando della metà. Professore, c'è una domanda di un ascoltatore che è arrivata proprio adesso e gliela faccio perché è molto interessante, perché lei si è soffermato più volte sul paragone con altri paesi, con la Germania e con la Francia per esempio, ma i panieri dei vari paesi sono coerenti con quello italiano? Dunque, la mia ultima domanda prima di concludere. Sono faticosamente coerenti. Infatti dico faticosamente perché questo è un processo di convergenza di metodologie fra paesi che non sempre è facile. Basti pensare al capitolo dell'abitazione, che in Italia assorbe come voce il 9% di peso e in altri paesi il doppio. Quindi esiste certo un problema di armonizzazione della struttura dei pesi, perché i panieri, diciamo, la struttura dei consumi è diversa. Però insomma, se lei questo paragone l'ha fatto, significa che può essere fatto, tutto sommato, non è del tutto improprio. No, professor Campiglio, io la ringrazio per essere stato con noi. Tra l'altro, effettivamente, come ultima domanda ne ho scelta una che avrebbe potuto far partire un altro quarto d'ora di trasmissione, ma non ce lo possiamo permettere, lo faremo in un'altra circostanza, perché poi il tema dei prezzi sicuramente ci accompagnerà a lungo, anche per tutto il prossimo anno. Grazie e buon anno, professore. Buon anno anche a lei e a tutti quanti. Grazie. Io torno a ringraziare di nuovo, anche se lo ha fatto già Sebastiano ieri sera, ma anch'io mi spendo in saluti e ringraziamenti per Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, questa sera Filippa Oreggi in assistenza tecnica. Signori, io vi saluto, vi auguro un buon anno, ritorniamo qua per entrambe le trasmissioni. Io ritorno il venerdì 2 gennaio sia alle 12 con Salvadanaio che alle 17 con Focus Economia. Buon 2009.